si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Che cavolo dici, Willis? Ho detto che cavolo dici, Willis? Avete avuto un tuffo al cuore, ma oggi la triste vicenda di Gary Coleman, l'amico Arnold, mi impone di iniziare la trasmissione in maniera diversa rispetto a quello che era l'argomento che ci eravamo prefissati di trattare. Il nostro amico Arnold, quel delizioso e meraviglioso bambino alto 1,40 m, che in realtà aveva già una quarantina d'anni, per la seconda volta è stato arrestato. Accadde già qualche anno fa, quando una sua fan lo riconobbe in un parcheggio e gli chiese l'autografo e lui la massacrò di botte. Era accaduto a me adesso, perché pare che abbia ugualmente massacrato di botte qualcuno in famiglia. Noi capiamo perfettamente ciò che passa per l'animo frastagliato di quel caro amico di tanti pomeriggi vissuti davanti al televisore. È successo qualcosa con lui. Ma tu pensi che mi amerai mai come amato lei? Io non ho mai visto nessuno divorziare in questo modo. C'è una bambina diversa. Dai, avanti, parli, non è la bambina. Io non posso più stare con te. C'è un'altra persona che mi piace. Adesso, questa stronza che io pensavo fosse la donna della mia vita mi ha mollato per un altro e se n'è andata. Che cosa devo fare? Ma scusi, se lei è sicuro di averle dato il massimo, perché se la prende tanto? Io l'ammazzerei. La vado a ammazzare, ma no, ammazzerei. Ma che state a fare? Tranquilla, ma tutto a posto. Stiamo a fare la lotta. Dov'è il nesso? Adesso ve lo spiego subito, scusate la voce rotta dalla commozione. Questo è il trailer dell'ultimo film di Muccino che è in uscita a fine gennaio. Noi questa mattina vorremmo stabilire un'ardita metafora di quello che è stato l'iter sentimentale di generazioni cresciute, allevate, pasciute e eternamente spiaccicate sull'immaginario televisivo. Quella che parte dal mitico amico Arnold, giovane in fondo privo totalmente di sentimento e di sessualità. Cos'era Arnold? Arnold era un oggetto comico, doveva far ridere, doveva dare degli sprazzi di adulta saggezza in un mondo totalmente reale, due fratellini di Harlem adottati da un miliardario di Manhattan che li porta in una vita che non è la loro e mantengono quella sorta di legame continuo con una sorta di saggezza forgiata sulle dure asprezze della strada nelle massime del piccolo Arnold, che poi se nella vita massacrerà le persone a pugni, soprattutto donne, questo è totalmente indifferente. Comunque Arnold era un oggetto che doveva comunque darci un modello, una lezione di vita. La generazione che oggi invece si sta allevando e è cresciuta e sta crescendo, sta invecchiando, anzi sta cominciando a stempiarsi in quel meraviglioso filone sentimentale dei veri sentimenti, della vera riscoperta, della possibilità di relazioni pure, al di là di quella squallida, banale e materialistica proiezione sugli istinti carnali, è quella che è cresciuta alla scuola di Moccia e di Muccino. Tanto che oggi noi vorremmo dare una definizione che è quasi una sorta di massima di vita. La nostra trasmissione ve la ripeterò spesso mentre voi chiamerete all'800240024 raccontando di quanto siete stati comunicati del moccio amoroso, ovvero l'amore moccioso in Moccia e Muccino. Promettimi solo una cosa. Che cosa? Che vado a lei, la lasci. Non lo prometti, vieni su con me. Adesso vedo. Promettimelo. Mi ci vuole un po' di tempo. Guarda che quando le cose smettono di funzionare non c'è più niente da fare. Ma adesso la questione è un'altra. Come faccio a riaddormentarmi senza di te? In qualche modo farai. Ciao, piccolina mia. Non andartene, dai. Devo davvero, è tardissimo. Allora vai subito. Ho subito un medico. Cerchiamo di definire e analizzare in maniera strutturale quella che è la massima, la sintesi del pensiero, della filosofia che questa mattina vi chiama raccolta all'800240024. Di cosa parliamo? Parliamo del moccio amoroso. Il moccio amoroso è la secrezione fisica più vicina all'espressione sentimentale proclamata nei film, nella filosofia, nella Weltanschauung di Moccia e Muccino. Ovvero, parleremo dell'amore moccioso. L'amore moccioso è esattamente la condizione dell'animo che produce il moccio amoroso. Quando c'è amore moccioso, c'è moccio amoroso. Noi adulti, noi vecchi, noi stanti residui di un'altra generazione, non sappiamo cosa sia il moccio amoroso e nemmeno sappiamo, o abbiamo più memoria, dell'amore moccioso. E tutto questo per una sorta di meravigliosa assonanza, per una sorta di predestinazione semantica, è nel film di Moccia e Muccino. Quindi il moccio amoroso, ovvero l'amore moccioso in Moccia e Muccino. Oh, che cazzo fai? Devi bussare, porca puttana! Ti stai per fare una sega? No, sto guardando una cosa, cazzo! Sai quando torna mamma? No! Valentina! Dimmi la verità, che pensi di me? Come sono messo da fuori? Lo sai cosa penso di te? Dimmelo ancora. Penso che sei anonimo e inespressivo. Quando parli sembra che c'è uno strofinaccio in bocca e non si capisce un cazzo. Non ti lavi e ti vesti da sfigato di sinistra quando il mondo va tutto da un'altra parte. Questo penso. Nient'altro? No, a posto così. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Oggi ti cimento in qualcosa di estremamente delicato perché va a lambire la contemporaneità. Ciò di cui parliamo non è il residuo nostalgico di generazioni che ormai farebbero bene a dedicarsi al gioco delle bocce e alla 3-7 fatto al centro anziani, ma qualcosa che palpita negli animi dei nostri giovani. Come definiresti le caratteristiche essenziali, strutturali del moccio amoroso, ovvero l'amore moccioso in Moccia e Muccino? Beh, bisogna operare dei sottili distinguo. Adesso è in uscita Baciami ancora, l'ultimo film di Gabriele Muccino, che è l'attesissimo sequel dell'ultimo bacio. Noi pensavamo di esserci liberati di questi personaggi, invece ritornano 10 anni dopo. E io imperversa già la canzone di Jovanotti, che nel video lo vede in smoking da balera, circondato da tutti i personaggi, in abissarsi in mare o fra le pannocchie con questa famiglia. C'è un significato simbolico nel campo di pannocchie? Non so, forse c'è qualcosa di sotterraneo, di allusivo. È difficile cogliere anche questi messaggi subliminali, talmente sublime, talmente profonda la poetica mocciosa di Moccia e Muccino, che in realtà non si fa mai abbastanza nel guardare, nel riguardare, nel rivedere, nel collazionare con i ricordi, con gli elementi simbolici. Scusami, è un attimo, sono lasciato perdere. No, per carità, era molto puntuale. In Muccino ci sono questi appartamenti di prati o dei parioli che assurgono una dimensione metafisica, in cui i personaggi schizzano, rimbalzano come palline di un flipper in una sorta di ipertensione amorosa continua. Parlano solo per scene madre, dicono solo frasi sentenziose estreme, spesso gridate. Accorsi usa molto l'ugola, parla molto di testa, un po' da venditore di Maxi Bon, ti ricordi quando facevo quello spot? Sì. Ha conservato quelle caratteristiche iniziali. E quindi si due meglio che one, era quella cosa lì. Esatto, quella. E quindi c'è questa costante tensione da palline di flipper, ripeto, in cui i sentimenti vengono estroflessi con perché violenza. Perché c'è sempre questa vena isterica? Io non sono un osservatore dei giovani, non so nemmeno cosa sia il pianeta giovani, non sono vicino ai giovani, anzi comincio a entrare nell'età in cui si odiano e disprezzano i giovani perché si invidiano. Però, ma esiste veramente, secondo te, questa vena sul filo dell'isteria che strillano sempre queste ragazze? Sempre sembrano quasi più vicine al climaterio che al menarca, pur avendo 14-15 anni, non si capisce. Per questi ragazzi che sembra che abbiano ancora da acquisire il timbro vocale, quindi hanno questi acuti perennemente presenti. Questo fa parte più del sadismo stilistico di Gabriele Muccino, perché invece in Moccia sono più vicine alla lobotomia, si esprimono per frasi molto semplici che possono stare nei caratteri di un SMS. Sì, poi Moccia in realtà nella sua figura fisica ha una placidità sibaritica, sembra il guardiano di un harem, non ha nulla a che fare con queste figure isteriche. Un lenone, sembra un antico lenone orientale, no? Lui sì, infatti i suoi film esprimono questa placidità, invece quelli di Muccino c'è l'ipertensione, c'è questa steadicam che ansima sui personaggi, che appunto vengono scagliati con forza in questi appartamenti di prati a rimbalzare, e gridano forte, quindi c'è una, proprio un'opposizione stilistica, però nei contenuti di base siamo molto, molto vicini. 80024 0024, l'avete capito qual è l'oggetto del contendere? Sono i lucchetti su Ponte Milvio, sono i ragazzine innamorate, sono i ragazzi eterni, figli di papà e di mamma, che comunque hanno i loro piccoli universi tempestosi, che non riescono naturalmente a comunicare agli adulti, ma diventano un prodotto di grande pregio di mercato, perché bisogna dire, al di là di tutto, che il prodotto vende, è un successo senza precedenti sia dal punto di vista della produzione di libri sia dal punto di vista dei film. Noi abbiamo affrontato più volte qui a Melo i generi, ecco, l'unico genere realmente creato dal cinema commerciale italiano è questo, il genere giovanilista moccia muccino, questo bisogna riconoscere come settore scaffale commerciale, è l'unico creato. Quindi quando parleranno di B-movie fra 20 anni, maniaci come noi, determineranno il genere del moccio amoroso in quello che noi stiamo dicendo. Perfetto. Anche tu avrai il tuo momento, Paolino, vedrai. A me mi fate schifo, mamma. Mi fa schifo mia sorella. Mi fai schifo pure te. Mi fa schifo la gente che conosco. Mi fate schifo tutti. Paolo, calmati, torna qui. No, io sono calmissimo. È che io mi sono rotto il cazzo di mettermi la maschera del perdente, hai capito o no? È molto prima di quello che tu pensi. Ti accorgete pure voi, io valgo qualcosa da qua dentro. Che magari valgo molto più di voi. E capirete quanto voi siete soli e mediocri. Questo siete, mamma. Soli e mediocri. Hai capito o no? Ve lo faccio vedere io quanto valgo. Ve lo faccio vedere io chi sono veramente. Quello che mi piacerebbe capire questa mattina è quello su cui vorrei convocare il pubblico che ci segue dal Manzanare al Reno, dalle Alpi alle Piramidi, è capire se questa è una realtà prettamente capitolina, prettamente romana. Io sono romano acquisito e vivo in un quartiere, nel quartiere Prati, quindi conosco perfettamente l'humus in cui nasce, cresce, si sviluppa, vado nella stessa palestra dove va Silvio Muccino, quindi ci vivo proprio a contatto. Ma è un quartiere fatto di vecchi, un quartiere bolzo, un quartiere che il sabato e la domenica è vuoto, durante la settimana è pieno di uffici di avvocati e di orrendi agenti immobiliari, quindi è innaturale che cresca questo fermento, quest'ansia, questo romanticismo che infatti si sviluppa a Ponte Milvio, a un chilometro di distanza, questo luogo orribile, transeunte di un continuo, una continua transumanza di pantegane, luogo di una improbabile movida romana, un quattume notturno che lascia le macchine e sta col bicchiere di plastica del mojito o con la birra in mano, così per trascinare queste serate che non hanno mai fine. Cosa ha a che fare con tutto questo, con i figli, con gli adolescenti, con i ragazzi di altre regioni d'Italia? 80024 0024, avete delle contaminazioni di moccio amoroso anche nelle vostre famiglie, nei vostri paesi, nelle vostre regioni, nelle vostre città? Avete il moccio amoroso che trasuda nelle camerette dei vostri figli, inzacchera l'uscio delle vostre case, lascia segni sul telecomando e sul vostro divano? Rispondete e intanto sentiamo Sansonna cosa ne dice. Dunque, questo monologo che abbiamo sentito prima di Muccino, che è degno di Lorenzo Olivia, no? ci porta alla dimensione ipercompetitiva della famiglia proposta da Muccino, Gabriele, in Ricordati di me, questa, appunto, questa famiglia di Prati in cui tutti sono in conflitto gli uni con gli altri per dimostrare di essere qualcuno, quindi c'è una sorta di ribellione a qualcosa di indeterminato. Nell'ultimo bacio, beh, determiniamo la classe, cioè lo status dei genitori del moccio amoroso, alta borghesia. Però questo è molto interessante, perché tendenzialmente sia in Moccia che in Muccino c'è l'alta borghesia di Prati, dei Parioli, che diventa, che affascina poi tutta Italia, perché questi film incassano in tutta Italia. E allo stesso tempo questi ragazzi, queste ragazze soprattutto del Mamiani, del Giulio Cesare, dei licei bene della capitale, sono attratte dai malandri di borgata, che però sono molto simili sostanzialmente a loro, tutto sommato parlano lo stesso basic italian, si esprimono per questo linguaggio semplice. Beh, si servono le stesse ginserie, vanno negli stessi locali, guardano la stessa televisione. Guardano la stessa televisione, appunto, sono omologati completamente dal modello televisivo De Filippiano, che insomma li accomuna tutti. Diciamo che l'uso ormai diffuso della macchina e dello scooter avvicina le periferie alle città. Sì, con la smart vanno un po' ovunque, entrano anche nelle no, locali. Anche più quelle terribili macchinine che si hanno, sì, quando ancora non si ha la patente. Ah, sì, quelle altre. Sì, che sì, è sì, il simbolo basilare della eterna infanzia. Del moccio amoroso, cioè ragazzini di 14 anni che hanno un'automobile a tutti gli effetti, che però non è targata, con tutta l'accessoristica e l'impatto ambientale di un'automobile, però non è targata. Dentro c'è un ragazzino che non sa guidare, che è infame, che si fa di birra fino alla radice dei capelli e invade comunque il nostro spazio vitale. Manuel, buongiorno. Oh, buongiorno signori. Lei ha tracce di moccio amoroso nelle sue contrade? Io in realtà vivo in una periferia di una piccola città del nord Italia, che è Brescia, e di mocciosi non ne vedo tantissimi. Sto seguendo con vivo disprezzo la vostra trasmissione, perché secondo me tutta questa... Beh, voi avete partorito Fabio Volo, che non è male. Sì, ha perso un po' della sua verve, del suo accento bresciano, però si difende ancora. Beh, però bene, quando ragazza. Arriva il sabato a Brescia mi dicono ci sia la fila di signore della Brescia bene di fronte a il luogo in cui lui si produce. Diciamo che ha fatto un volo molto buono e quindi ha tutti i miei complimenti. Beh, dai, esterni le ragioni del suo disprezzo. Perché state veramente sparando a zero contro una croce che è così grossa e così rossa e non si può non prendere le difese di questi le prenda, non, amorocci. Non chiedo di meglio. Il fatto è che non ho difese da prendere e non sono ancora riuscito a togliermi il sorriso perché state dicendo cristallina verità. E allora l'abbiamo fregata di fronte alla adamantina forza della verità. Lei non può che piegare il capo e intingere la fronte peccaminosa nel moccio amoroso che noi stiamo elargendo a piene mani. D'accordo. Mirko, buongiorno. Buongiorno. Oh, lei ha una fidanzata cresciuta con i film di Muccino. Purtroppo sì. E quindi lei sarà cosparso come un lumacone di moccio amoroso. Beh, certo, perché poi in coppia si creano anche problemi. Io, la mia ragazza ha 23 anni, io 30. Quanto ne si cerne anche... di moccio amoroso la sua fidanzata? Tantissimo, perché problemi di coppia si creano appunto perché lei è cresciuta con questi amori... dove c'è tutto questo sentimento, questa diciamo tragicomica realtà dell'amore. E lei vorrebbe ogni tanto... Io invece sono cresciuto sulla realtà, cioè su un rapporto più diretto. Invece lei vuole tutte queste idealizzazioni alla moccia di amori che... E non ci si smutanda mai. Infatti. Lo so, quello è il problema. Quello... Non volevo dirlo, ma vale questa mattina gettare la masca. Il vero problema della profusione di moccio amoroso, che in realtà, prese le loro problematiche, dalle loro liti, dai loro isterismi, dalle loro secrezioni continue di moccio amoroso, in realtà poi alla fine non si capisce quando mai abbiano il momento per dare sfogo a quella che è la più giusta, la più concreta e la più salutare attività amorosa nell'età adolescenziale. Sansonna, sei d'accordo? È un rinvio continuo, come nei romanzi di Masoch, l'atto amoroso, l'atto sessuale è continuamente rinviato. Mirko, lo dica con sincerità, visto che facciamo un servizio questa mattina, stando così realmente le cose, il moccismo e il muccinismo, l'amore moccioso in moccia e muccino, porta questo frenare la crescita istintuale nella coppia adolescenziale? Sì, lo confermo in pieno, perché appunto non si pensa alla... diciamo alla realtà e magari anche, se è brutto dirlo, alla materialità del rapporto, che è una parte fondamentale. Idealizzare il tutto, il rapporto è un continuo idealizzare i sentimenti, anche lo stesso atto sessuale diventa quasi un rito, ecco. Quindi il moccio amoroso è una sorta di anestetico spalmato sulla vigoria adolescenziale per tenerla a freno. Sì, io ne sono convinto di questo, anche perché ho a che fare anche con ragazzi di 12 anni, di 15 anni che crescono al moccio amoroso, e vedo che non c'è, diciamo, quella passionalità che avevamo noi, che crescevamo magari, come diceva lei, con i B-movie di Lito Banfi e company. Quindi, sentiamo Sansonna, scusa, che deve fare un'importante precisazione. No, la cosa fondamentale... No, tu conosci le basi esegetiche, puoi confermare o smentire? Ovviamente. Soprattutto il dato fondamentale è l'omologazione devastante, perché il rito diventa lo stesso, quello del lucchetto accomuna tutti in Italia, scrivere con lo spray 3 metri sopra il cielo. Guarda, sull'autostrada invece di mi sono accorto ieri mattina che dalla finestra di casa mia, sul marciapiede di casa mia sotto, c'è una frase muccinesca terribile, tipo patatina della mia vita, ti amo. Io penso quel poveraccio che con la bomboletta, penso poveracci poi genitori di patatina che gli hanno scritto l'infangato l'onore filiale, poi infangato da una semplice... Da un residente che sì, pars pro toto, la patatina sì. A parte per il tutto, no? Infatti queste frasi che rimbalzano tutte uguali in tutta Italia, identiche, cioè, la poesia è l'eterno ritorno dell'uguale, forse un po' stancante, un po' omologante, un po' deprimente. Ma quello che non è riuscito a fare, diciamo, il rigore dell'oratorio, è riuscito a fare il moccio amoroso. Certo, come aveva profetizzato sempre il pluricitato Pasolini. Quindi diciamo che laddove fallirono i Boy Scout nell'evitare la promiscuità e convogliare le energie giovanili verso mete spirituali, è riuscito il moccio amoroso, ovvero l'amore moccioso in Moccia Muccino. Melog 2.0. Pronto? Sandra, con l'allenatore ho fatto patatina patatina. Cos'è patatina patatina? Se baciamo un ragazzo diciamo che abbiamo fatto micio micio. Se andiamo oltre diciamo la seppia. Se ci andiamo giù pesanti diciamo patatina patatina. Sì, comunque sono sempre la prima in classifica. Tu sei terza dopo Fabiana. Pronto? Sì, Sandra ha fatto micio micio con Luca. Andrea la seppia, Bibo patatina patatina, Claudio micio micio, Dado micio e seppia, i gemelli doppia seppia, Gigi patatina patatina e ho dato anche una leccatina alla padella. Naturalmente come ogni genere che si rispetti anche il moccio amoroso comincia a avere le sue imitazioni, avere appunto coloro che fanno del caposcuola una sorta di punto di partenza per andare oltre. Questo era Ti Stramo di Pino Insegno e Gianluca Sodaro, è una parodia totale di Muccino. Sentiamo Nicola. Nicola, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, è sempre un piacere ascoltarla. Mi parli del moccio amoroso, almeno nella sua esperienza. Allora, la mia esperienza è un'esperienza fortunata, perché io sono un papà brizzolato con un figlio 23enne e una figlia 14enne. Il 23enne rifiuta assolutamente di ascoltare e guardare qualcosa che è inascoltabile, inguardabile. Quindi esente da moccio amoroso suo figlio? Assolutamente. Sempre esente. Stato esente? Sempre stato esente. Forse sì. Autoimmune proprio, è nato già con... Credo sia nato con degli anticorpi, evidentemente è una questione genetica, perché invece la figlia 14enne guarda e ascolta, ma per il piacere di criticare in maniera feroce ciò che guarda e che ascolta. Ah, come però... oggetto di dileggio e di derisione, quello lo stiamo facendo noi in questo momento. Esatto, anzi volevo... A proposito, una piccola digressione, volevo fare i complimenti all'ascoltatore che tentava di difendere l'indifendibile, comunque. Sì, infatti è crollato vittima della sua ibris, non c'è riuscito, è chiaro. Però il mio io ho un dubbio amletico che è un pensiero ricorrente. I nostri figli o comunque i mocciognani, come li vogliamo chiamare? Mocciosi semplicemente. I mocciosi sono così perché esiste Moccia De Filippi e tutte queste altre amenità. No, non confonda, confonda. Cioè, perché De Filippi è un altro universo, ne possiamo parlare quando vuole, ma nulla a che fare con il moccio amoroso, il De Filippismo di uomini e donne. È un'altra categoria dell'esistere. Il contesto comunque è lo stesso, cioè un contesto di assoluta nullità, secondo me. Quello è il contesto in cui si muove tutta l'umanità, almeno il 90%, non ci possiamo. Il problema che mi pongo io è: qual è la causa e qual è l'effetto? Abbiamo fatto una generazione di figli mocciosi o ce li hanno fatti diventare mocciosi? Guarda, io mi prendo le mie responsabilità. La responsabilità del moccio amoroso è l'amore moccioso che persiste come elemento costante anche nella generazione dei genitori. Come diceva prima l'ottimo Giuseppe Sansonna, che ci segue come Caronte in questo trapasso tra il mondo della realtà e il mondo della meravigliosa realtà del moccio amoroso, fa sì che gli stessi genitori altro non sono che testimoni del loro esito filiale. Giuseppe Sansonna. Io credo che ci sia una spirale, un circolo vizioso in cui non si sa se l'uovo è venuto prima dalla gallina o viceversa. E comunque... È la gallina dell'uovo d'oro, comunque il moccio moccioso. Questo non possiamo... Indubbiamente è un genere prolifico. E comunque è un rimbalzo continuo fra il mondo dei media e del cinema e il mondo della realtà che porta al peggio in una spirale. Ma noi diciamo il peggio, ma alla fine ragioniamo un attimo. Il moccio amoroso tranquillizza i genitori, perché mentre i figli, se cernono moccio amoroso, comunque non si mettono nei guai, non fanno le cose irreversibili, non si drogano, tutte le cose cattive non le fanno, stanno lì, fanno continuamente come fosse colla vinilica di moccio amoroso e non hanno bisogno di altro. Perdono molti neuroni, però gradualmente arrivano all'età matura. Però sono sotto controllo. Sotto controllo, sì. Dopodiché possono anche rappresentare alla fine uno specchio ideale, perché il sentimento è sempre meglio della brutalità, perché l'innamoramento è sempre meglio della cruda sensualità. Quindi corrispondono a una serie di modelli estetici, etici, amorosi, comportamentali che sempre la società ha cercato di perseguire. Certo, però c'è un ribellismo di fondo che, appunto perché l'aggressività adolescenziale va canalizzata, quindi anche in questi film c'è il ribellismo andiamo a fare una cosa contro il sistema, rubiamo le macchine e facciamo delle gare fuori città. Cioè, quindi comunque sì, un po' di le corse dei quatti con le motociclette, sì, sono cose che si fanno normalmente, si vedono fare normalmente queste. Quindi qui viene canalizzata la loro ribellione. Poi per esempio in Mucino, quando invecchiano, quando arrivano ai 30 anni, guardano alla rivoluzione, facciamo ancora la rivoluzione. Per esempio c'è una scena meravigliosa che io adoro, dell'ultimo bacio, in cui urlano Pasotti, Santa Maria e Cocci, urlano agli ignari abitanti dell'Eur davanti alla Ghetti, siete tutti morti dentro, urlano ai germani reali che camminano placidi nei navigli. Cioè, quindi non c'è questo accanimento nei confronti degli abitanti dell'Eur, è veramente ingiustificato, insomma. Leggo qualche messaggio su Facebook che oggi mi dà qualche problema, non riesco a aprire la posta. Un ascoltatore mi dice: la rete, purtroppo, scrivendomelo con il suo palmare, quindi è in viaggio, purtroppo il moccio amoroso ha imprigionato mia moglie. Ecco, cosa accade quando una famiglia è la moglie, la madre a rimanere invischiata nel magma del moccio amoroso? Questo mi piacerebbe saperlo, quando gli adulti ne sono invischiati, perché i libri di moccia li leggono anche gli adulti. Dice Chiara, di cui non posso rileggere il telefono perché non riesco a aprire la posta, però dice una cosa molto interessante. Non è angosciante il senso di omologazione, assenza di speranza riguardo al futuro, che funge da filo conduttore in tutti i film di Muccino? Sempre a dirti: o tu, Pecoroni, condividerai questo inevitabile triste destino con tutta la tua generazione. Ma ancora prima va detto, Chiara, Muccino invecchiando sta progressivamente alzando la fascia d'età di cui trattano i film. Dal liceo ai trentenni in crisi, ora un passetto in più, gli sposati, gli accasati. Poi vedremo anche un film sulla crisi di mezza età e la rinascita dell'amore pseudo-adolescenziale all'interno di un ospizio per anziani. Quindi è un filone inarrestabile questo. Sì, sì, tanto lui ha cliché da sfornare su qualsiasi cosa. Per esempio, nell'ultimo bacio, il finale, quando Accorsi si prospetta nella vita futura con la Mezzogiorno, dice: inevitabilmente l'adolescenza è finita, quindi adesso avrai una casa ricca, avrai una piscina, avrai un cane che chiamerai Marx per conservare Già c'hanno sempre il cagnolino, sì, che si chiamerà Marx per conservare quel lato ribellistico, rivoluzionario. Il Labrador assume il nome di Karl Marx, quindi come se fosse inevitabile poi per tutti a 30 anni avere una casa con piscina, prato inglese, no? Questo è l'immaginario comunque... Ecco, non hanno mai un problema economico, questo è vero. Il moccio amoroso evidentemente è l'unica fonte di sostentamento, non hanno bisogno di altro. Però non viene secreto, perché la povertà... Non lavorano mai, poi. No, esatto. Non hanno bisogno. Bruno, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire. Volevo dire semplicemente che secondo me... Volevo contraddirla su un punto per quanto riguarda Moccia, secondo me. Io lo trovo un autore un po' pericoloso per la società. Beh, adesso sia pericoloso Moccia. Guardi, io ho visto... Ero a casa con mia moglie una sera, abbiamo visto una videocassetta, abbiamo visto 3 metri sopra il cielo. E noi abbiamo una figlia di 9 anni. Io sono rimasto inorridito a vedere sto film. Le dico la verità. Pericoloso, esaltava corse motociclistiche. Riesce a vedere trasgressione nei film di Moccia? Guardi, sentiamo un attimo Sansone, resti in linea. Io sono d'accordo con questo ascoltatore in parte, perché poi soprattutto c'è una violenza di fondo anche attraverso il cliché, permeata, affondata nel cliché, però c'è una sorta di violenza. Nel finale del film, quando il migliore amico del protagonista muore schiantato nell'ennesima corsa clandestina, che però è giusto che accada, se vogliamo, c'è una catarsi, è la morale del film. Però il bello è che la ragazza dei Parioli lascia Scamarcio, che è il coatto, lo pseudo coatto, perché gli è morto, mentre gli muore l'amico, basta con questo mondo di ribellione, basta questo mondo in cui morite per strada. È tipico del moccio amoroso, però, scusami. Esatto, viene lasciato nel momento della disgrazia, viene anche lasciato. Ma perché causa contaminante dell'uscita dalla retta via, cioè dalla scia lumacosa del moccio amoroso? Proprio la scia lumacosa prosegue nel sequel. Anche perché Scamarcio, da buon borgataro, voleva arrivare al sodo probabilmente, mentre lei voleva rimanere immersa in questo continuo e contemplativo humus di moccio amoroso. L'occhio luciferino di Scamarcio diceva questo, però poi il moccio prosegue nel sequel, perché poi sarà Voglio di te ed altri infiniti sequel in cui continueranno questo rapporto, quindi non è che non si chiude là. Il professor Alessandro Chiappini, che è il nostro fornitore di materiale innominabile, questa mattina mi ha citato una massima di saggezza. Dice: finché sei fidanzati si vorrebbe la propria donna 3 metri sopra il cielo, poi quando ci si sposa si vorrebbe 3 metri sottoterra. Questa è la popolare lettura poi del moccio amoroso, e quel senso di ribellione. Sì, il senso del detto. Bruno, scusi, ancora in linea? Sì, sono ancora in linea. Concluda, perché l'ho interrotta. Come, mi scusi? No, l'avevo interrotta prima, se vuole concludere alla luce di quello sì, che ha detto Sansone. Volevo concludere con questo discorso. Secondo me l'ho trovato un film veramente che esalta violenza, tempistelli, e sono rimasto anche sorpreso nei titoli di coda di vedere che è stato anche finanziato da un qualche ministero, non so, ministero dello spettacolo, adesso non mi ricordo. Vabbè, finanziano un po' tutto. Sì, non sì. Beh, per me, a me ha fatto dispiacere sapere che è stato. Vabbè, lei riuscirà a vedere anche un senso di pericolosità in quello che noi consideriamo invece ma una sorta di... Io spero che mia figlia non lo veda mai un film del genere, perché veramente è pericoloso per i ragazzi. Noi la vediamo quasi come una sorta di castrazione chimica degli adolescenti, e lei vede che invece è pericoloso, ognuno al suo punto di vista. Generoso. Buona, buongiorno. Lei ha un nome da moccio amoroso, però. Sono una vittima. Sono una vittima di moccio amoroso. Mi dica perché, in che maniera? Si confessi. No, sono stato io il protagonista del moccio amoroso. Però, guardi, è stato come, curarsi. È stata una cura. È stato no, vada ai fatti, non teorizzi, vada ai fatti. Quando è stato contaminato da moccio amoroso? 8 anni fa. In che occasione, con chi? Senza fare nomi, comunque con una ragazza. Ma lei c'aveva 70 anni dalla voce, com'è possibile? è possibile. Vabbè. Ma io non ci credevo manco io, ma poi è successo e ci sono rimasto talmente male. Scusa se ti chiamo amore, una cosa del genere. Come? No, chiedo Sansonna la fonte. La fonte è quella. Scusa se ti chiamo amore. Credo l'ascoltatore si è ispirato esattamente a quel film. Cioè la ragazzina che si innamora dell'uomo adulto, sì, lo porta per mano nel gorgo del moccio amoroso. E il quarantenne che poi ci resta invischiato e viene disucchiato. Però è la cosa positiva. Così impara però. La cosa positiva è che mi ha come creato degli anticorpi poi. E quindi adesso va soltanto con sane cinquantenni? Sì, gli anticorpi, nel senso che adesso ho dissacrato completamente il sentimento e lo trovo solamente patetico. Mi rivedo talmente patetico in quell'occasione che il moccio amoroso per me è solo un patetismo. Ma ecco, il moccio amoroso fungeva da anestetico alla giusta esternazione della passione in un rapporto fra uomo e donna? O è una leggenda anche questa? Adesso ritengo che sia più che altro una leggenda, è un modo di fare, uno stereotipo per cercare di entrare nell'altro individuo. È un lubrificante, diciamo. Per una porta di servizio. Perfetto, è il lubrificante per la porta di servizio, il moccio amoroso, nel caso del nostro sfortunato ascoltatore che è rimasto così fortemente colpito nel suo intimo, ma è riuscito a risorgere, la sua catarsi ci conforta. Melog 2.0. Sono 21 giorni, 8 ore, 16 minuti e 24 secondi che ti sto aspettando. E allora? Io sono più di 18 anni e mica mi sono mai lamentata. Il vero amore è come i fantasmi. Tutti ne parlano, ma sono pochi quelli che lo hanno visto davvero. La Rochefoucauld. Giuseppe Sanson, che infinito e frastagliato e immaginifico universo, la citazione, la musica, la frase effetto, il contrasto, il pathos, ma c'è un'alchimia perfetta che non si può fare a meno di secernere moccio amoroso per ogni narice. L'accumulo di cliché è talmente eccessivo, estremo, che appunto l'espettorazione è inevitabile. Infatti questo finale in cui il quarantenne da Nabokov a Mocci, il quarantenne Raoul Bova avvinghia questa diciottenne arpionata al Mamiani, arpionata in un liceo romano, e vivono insieme la loro avventura amorosa in questo faro sul mare. Cioè, io tremo pensando alla stronzeria di quella ragazza quando avrà 30 anni, se a 18 anni già era così. Sì, sì, la ferocia è comunque evidente, perché c'è un cinismo superficiale che aleggia in tutti i discorsi, nell'incapacità di uscire da una bidimensionalità, no? Tutto è molto basico, piano, estetico, tutto estetizzato, anche i coatti di Borgata sono comunque patinati ed estetizzati in questo, sia nell'immaginario mocciano che quello mucciniano. Quindi sono finti come in una i cliché fiction della Rai, non sembrano mai veri i personaggi. Il gioco di specchi è quello, il cliché è imperante, tutto procede per quello e si autoalimenta. Oggi Vigliacco si è chiamato una donna. Devo dire che il moccio amoroso funge da anestetico, c'è una ritrosia femminile nel partecipare o anche nel denigrare, ma gli uomini sono veramente rimasti invischiati come insetti nella ragnatela di un ragno. Franco. Sì, sa, Salve Nicoletti, confessi. Buongiorno. Ascolti, mi ha fatto ritornare indietro, io credo, di 35 anni, anche di più, perché ne ho 56-57, sono nato a Roma, sono un professionista a Firenze, ora in autostrada. Volevo dire questo, allora, io mi ricordo, sono praticamente una persona che ha vissuto in Borgata, a Monte Mario, e si viveva per arrivare al sabato sera, il famoso sabato sera, per andare a Corso Francia e vedere questi ragazzi pariolini che arrivavano con queste moto e tirare in antagonismo, quindi noi con le lambrette ma modificate, portate a 2,40 eccetera, cercando di conquistare le loro donne, che, mi permetto di dire una cosa, anche 40 anni fa erano un pochino più stronzetti, insomma. Sì, diciamo, il figa di legnismo affonda le sue radici in quella generazione, devo dire. No, mi dispiace, io lo so, ma è così. Era lì, però non volevo dire questo. Però quando si arrivava, perché noi chiaramente si viveva con ragazze che erano un pochino più semplici, però perlomeno al momento giusto davano le loro soddisfazioni, No, certamente, tant'è vero che noi si era nelle cantine, insomma, lei lo sa, perché dovremmo essere coetanei. Sì, si arredavano queste cantine, questi garage, chiamandoli clubini, era il luogo di promiscuità precoce, non c'era altro motivo, certo, è chiaro. Ma loro invece avevano le ville con la piscina, e il moccio amoroso nelle cantine non alligna, esistono altro tipo di muffe. Comunque, il suo ricordo mi conforta, devo dire che in effetti c'è una generazione che si è salvata. Forse non è la stessa cosa per Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei è rimasto invischiato nel moccio amoroso? No, ma è chiaramente un desiderio, cioè è un desiderio, cioè, ho visto il film di Muccino come un paradigma di un'altra vita, anche nel senso, io mi sono sposato molto tardi, ma fino ai 30 anni ho, diciamo, sempre, cioè, dai 30 ai 40 anni ho sempre immaginato una vita molto mocciosa, ecco. E quindi? No, niente, anche. Ma io più che altro vedo che. La sento un po' muccinizzato, però, vada al dunque, sennò. No, vabbè. Questi film di Muccino comunque sono dei film che noi adesso guardiamo un po' scandalizzati, ma in realtà sono dei film fantastici, perché rappresentano molto meglio di altri film al tardi oggi, Ho capito, e purtroppo il moccio amoroso ormai si è sostituito ad ogni altro fluido, e giustamente lei dice questo, ma non ho nulla da obiettare. C'è chi insinua tra i nostri ascoltatori che il vero maître à penser, il grande vecchio del moccio amoroso, sia l'esimio professor Alberoni, il lucido editorialista del lunedì mattina del Corriere della Sera, colui che scrisse su amore e innamoramento un'infinità di libri. Tu sei d'accordo? Mi ricordo una battuta sui... Il grande vecchio del moccio amoroso, Alberoni. Sono d'accordissimo. Baudelaire era schiavo dell'oppio, Alberoni schiavo dell'ovvio completamente, quindi del moccio amoroso, quindi la vera sostanza, il vero assenzio e la vera fata verde del muccinismo è il moccio amoroso. Ecco, il moccio amoroso è la fata verde, l'elemento ispiratore del muccinismo e dell'amore moccioso. Finalmente Marina. Ciao. È la prima donna. Allora, lei, ecco, secerne moccio amoroso, Marina? No, ascolta, io volevo... No, rispondi alla domanda. No, ho 60 anni, dai, non è possibile. Quindi nella fase di aridità? No, assolutamente, sono innamoratissima. Sto andando a sciare con il mio uomo, è bellissimo. Oh. Senti, no, ti volevo tentare... 60, guardi, anch'io ho quasi 60 anni, quindi è inutile che faccio figli. No, io ne ho 60, li ho fatti l'altro giorno, quindi è una meraviglia. È la mia quasi coetanea. Ecco. Senti, no, io volevo fare un tentativo di difesa, visto che non è riuscita quel signore, ci provo io, insomma. E, pensa a quando avevi 14-20 anni, no? Sì, in realtà eri pieno di queste cose, soltanto che all'età manco nostra, per niente, guarda. All'età nostra non si esplicitavano, perché facevano ridere, perché facevano un po', ci prendevano in giro e così via, uno se le teneva dentro, si vergognava, ma in realtà... Quello era il problema, uno se le teneva dentro. Quello, cercavamo, sì, disperatamente, adesso, che ci facesse uscire. Per questo io dico che è pericoloso, come dice quel signore, perché adesso sta diventando veramente una marea di poltiglia, come la chiami tu, però in realtà, diciamo, all'origine non c'è niente di sbagliato. Però scusami, Marina, tu stai andando a sciare col tuo uomo. pensa che meraviglia che sarà questa settimana lontano dal mondo, una fessura aperta nel rigore quotidiano. Vi auguro delle meraviglie, meravigliose serate, nottate a guardare la neve dalla finestra. No, a fare anche cose come dici tu, materiali. Ecco, ma pensa se tu invece avessi vicino un esito mucciniano di moccio amoroso. C'eresti uno che ti strilla nelle orecchie, ti urla, si sbatte sul muro, ti scrive sulla neve, ti stramo, queste cose qua. Che te ne fai? Io volevo, no, infatti sarebbe una cosa tremenda, finirebbe lì, tra l'altro non reggerebbe lui prima di tutto, perché la cosa bella di questa storia è anche proprio la come dire, la serietà, come non so come dire, come chiamarla. Ma il problema, quello che voglio dire, non criminalizziamo l'origine di questa cosa, criminalizziamo l'uso che ne viene fatto, che è una cosa veramente vergognosa. Diciamo, allora, il moccio amoroso è una sostanza che andrebbe liberalizzata, così nessuno ne farebbe abuso. Non il moccio, i sentimenti all'origine che ci sono, cioè i ragazzi si sa, si innamorano, si idealizzano e lo devono fare. Quindi lei difende l'amore moccioso, ma fa un distinguo sul moccio amoroso. Sanson. Il sentimento è una cosa, il sentimentalismo omologante mocciano è un'altra. Andrea, sentiamo Andrea cosa ne pensa. Andrea? Pronto? Sì, Andrea. Io ho già intervenuto prima, eh. Hai già intervenuto? Ecco, sta lì allora, che vuole? Ah, già lei. No, scusa, è un errore. Arrivederci, Andrea. Segate Andrea. Tommaso. Ciao Gianluca. Sì. Allora, io volevo dare la mia testimonianza perché io, diciamo, ho 38 anni, sono nato, cresciuto, vissuto, ho frequentato le scuole a Prati e ho frequentato gli ambienti anche di Roma Nord, quindi Cassia, Ponte Milvio. Allora, volevo dire che... Qui sei un testimone di quella generazione. Sì, volevo dire che il cliché di cui state parlando in realtà è un cliché che c'è in realtà effettivamente nelle dinamiche, nei comportamenti di quegli ambienti. Però la genialità è stato nel coglierlo, ne farne un elemento letterario. Sì, però secondo me ormai è finito, cioè sono fuori tempo, cioè questo valeva fino a qualche anno fa. Secondo me oggi stanno soltanto diciamo riscaldando una minestra che non va più bene, perché le nuove generazioni in realtà, quello che sto notando io, il mio punto di vista è questo, oggi si sono spostate più verso il glamour, cioè verso un atteggiamento meno borghese, diciamo nelle sterilità. Lo sai, è molto importante quello che dici, noi stiamo celebrando in realtà un fenomeno che ormai è di retroguardia, come sempre accade nel nostro paese, pensando che appartenga alla nostra contemporaneità, quindi è già passato. Invece, secondo me è finito, secondo me ormai è finito, questo valeva fino a qualche anno fa. Oggi nuovi borghesi romani sono molto più, si sentono molto più creativi, molto più artisti, molto, ripeto, solo nelle esteriorità, perché poi di fatto non sanno quindi fare niente. Quindi questa frangia lunga, questa sfumata lenta di madri psicanalizzate, di padri pluriseparati, adesso, è finita. Se lei guarda la De Filippi con la puntata sui vecchi, sì, già adesso si sta sfruttando la terza età, quindi ormai anche già il discorso dell'uomo adulto che vuole risentirsi giovane, oppure riacquistare delle opportunità perse a causa del matrimonio. Quindi ormai il moccio amoroso diventa lenitivo per catetere, sono d'accordo. Le sue mani. E che bocca. Ma avrà creduto a tutte le cavolate che gli ho detto? Mamma. Non mamma. Mamma. Non mamma. Casomai mi ricorda come si chiama o non mi ricorda come si chiama? Carolina Bolla. Che sciocco. Oddio, mi sto innamorando. Ti ama, ti ama! E diglielo tu, Margherita! E su questo meraviglioso e tenero tappeto di moccio amoroso non posso che salutarvi, sperando che l'amore moccioso di Moccia e Muccino abbia fortificato le vostre difese nei confronti dell'amoroso moccio. A più tardi, e insieme a Sansonna vi diamo appuntamento al prossimo grande incontro con il cinema che tanto ci spiega la vita. Ciao Giuseppe. Ciao. Quel buio in presepe, le case diventano piccole. Ed io che non riesco a mostrare emozioni, ed io che non riesco più a piangere. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.